Test B2. Ascoltare. Prova 1. Ascolterai un'intervista. Ascolta attentamente e poi svolgi l'attività indicata. Che cos'è una storia linguistica? È la storia di una comunità che può anche parlare diverse lingue. Tanto più di una comunità come quella italiana, dove, a differenza di altri paesi, c'è un marcato multilinguismo. È la masse parlante di cui scrive Ferdinand de Saussure. È una storia d'Italia subspecie linguistica? Possiamo dire così. Non riesco a capire perché gli storici italiani trascurino questo aspetto. Accade in prevalenza da noi, dove pure è impossibile ignorare il modo in cui le persone si capivano o non si capivano. In fondo, uno dei motivi alla base della richiesta di unificazione del paese era proprio la comunanza di lingua. Che poi la comunanza fosse una chimera è un problema sul quale gli storici dovrebbero soffermarsi. E tanto più dovrebbero soffermarsi sulla formidabile convergenza degli italiani verso l'italiano avvenuta negli ultimi 40 anni. È un fenomeno vistoso che induce a rivedere, almeno su questo versante, un certo pessimismo nelle ricostruzioni della nostra storia recente. Il bisogno di trovare un terreno d'intesa da nord a sud ha avuto un esito indubbio. E il bisogno l'ha avvertito più la popolazione italiana che non le classi dirigenti. Questo va sottolineato senza populismi. E però, lei aggiunge, chi diagnosticava la morte dei dialetti deve ricredersi. Posso inondarla di cifre? Certamente. Fino al 1974, la maggioranza degli italiani, il 51,3%, parlava sempre in dialetto. Ora, chi parla sempre in dialetto è sceso al 5,4%. Ma, regredendo l'uso esclusivo, è andato crescendo quello alternante di italiano e dialetto. Nel 1955 era il 18%. Oggi è il 44,1%. Quelli che adoperano solo l'italiano sono il 45,5%. È vero che i toscani, i liguri e gli emiliano-romagnoli parlano solo in italiano fra l'80 e il 60% e che i lucani, i campani e i calabresi vanno dal 27 al 20%. Ma è vero anche che chi usa solo il dialetto in queste regioni del sud non supera il 12-13%. E questa alternanza quanto incide sulla capacità di comprendersi l'un l'altro? In una conversazione, non sempre in maniera programmata, si passa dall'italiano al dialetto e viceversa molto facilmente. Ovviamente rivolgendosi a un interlocutore e che il dialetto possa capirlo. Gli inglesi lo chiamano code switching o code mixing. È uno strumento prezioso per arricchire il parlato, migliorando l'espressività. Lei sostiene che l'acquisizione dell'italiano comune sia stata favorita dalla mescolanza di tanti idiomi. Quante più lingue si confrontano, tanto più cresce l'esigenza di una lingua comune. L'importante è che l'ambiente sia unitario. È un fenomeno verificabile fin dal 500 a Roma, per esempio, dove affluiscono popolazioni da molte regioni dopo il sacco dei Lanzichenecchi. La classe dirigente, cioè la curia, era pan-italiana. Le donne convergono verso l'italiano prima e più degli uomini. Questo accade sia nei contesti familiari, dove le donne, rivolgendosi ai bambini, prediligono l'italiano, sia fuori da quest'ambiente. Lo attestano i dati sulla lettura o quelli sui rendimenti scolastici. E oltre al multilinguismo, cos'è che ha diffuso l'italiano? Sono tanti i fattori. L'immigrazione interna, l'affluenza nelle grandi città, radio e televisione. Ma va sottolineato l'alto livello di scolarizzazione che ha portato al diploma secondario il 75% dei ragazzi. Purtroppo questa richiesta di più alta formazione si è arrestata negli ultimi anni. In che senso? Il numero dei laureati in Italia resta basso rispetto alla media europea e ormai si diffonde la sfiduciata convinzione che una laurea serva a poco, perché molte imprese sembra non abbiano bisogno di alti livelli di istruzione.